Tu non hai capito niente di come sono io e di come ti amerei di più. Se una volta fossi tu a cercarmi. Tu non hai capito niente, stai lì ad aspettare. Devo sempre essere io il primo a chiedere l'amore. Appena ti stringo una mano tra le mani, allora tutto cambia, tu diventi uguale a me, ma è già un'altra cosa, non è più la stessa cosa, è il primo passo che vorrei da te, tu non hai capito niente. Ma forse capirai, quando un giorno mi sarò stancato di te che aspetti sempre.